dei lampioni. C'è qualcuno che ti osserva mentre guardi la TV. Non contare su di me. Vedermi come te. Come te che non ti scuoti, da cosa non ti gestivo, ma è per dopo le mutande, ma c'è che solo se ne frega, non contare su di me. Come te.